Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Per un momento ho messo il piede dall'altra parte, rischiando qualcosa per poi di entrare nella zona tranquilla. Ragazzi, ci disse, devo dirvi una cosa. Sono segnalato in Germania e Austria per un piccolo problema di spaccio. Ho quindi un documento falso. Spero non se ne accorgeranno. Storie di falsari e di padri impavidi in una puntata che si intitola Come Walter White. Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene. È curioso. Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò, alzati. Vada ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai. E lui il mondo lo ha colpito con tutta la forza che aveva, perché questo pezzo che è tratto da Breaking Bad è probabilmente rappresenta la serie televisiva che maggiormente ha a che fare con una linea d'ombra, quella che Walter White ha valicato sin dall'inizio della sua storia. Da uomo per bene diventa uno spacciatore vero e proprio, un fabbricante di metanfetamine, e una volta che l'ha passata quel confine non è più tornato indietro. Questa puntata di Linee d'ombra per una volta ha a che fare non solo con delle storie che hanno a che fare con un confine virtuale, ma con un confine vero e proprio. La prima storia racconta di un gruppo di amici che deve valicare un confine, quello con la Germania e con l'Austria, per andare all'Oktoberfest, e uno di loro a un certo punto dice: ragazzi, io ho un piccolo problema, è un problema legato al mio passato, alla mia fedina penale. E quindi si trovano tutti insieme con quella sensazione che si prova sempre quando si è davanti a un confine e si sa di avere fatto qualcosa di sbagliato. La seconda storia invece sembra davvero tratta da Breaking Bad, se il protagonista sembra Walter White, cioè sembra davvero il protagonista di questa serie televisiva, ed è la storia vera, come sempre, di un uomo che per salvare il figlio e per curare il figlio, per curare le sue cure mediche, decide di fare esattamente quello, di fare il corriere della droga. Benvenuti a Linee d'ombra. Era il 1993, avevo 23 anni, ultimo weekend di settembre. Qualche giorno prima, durante le prove del gruppo nel quale suonavo, nasce l'idea di andare a Monaco di Baviera all'Oktoberfest. Io, che suonavo le tastiere, Ugo il cantante e Claudio il chitarrista, decidiamo che si può fare. Si decide che si parte in auto, si dormirà in tenda da qualche parte, dove troveremo un po' di prato. Sembrava una pazzia, ma giusta per i 20 anni. Non si navigava nell'oro, quindi quando il chitarrista Claudio ci disse «Viene anche mio cugino Ignazio?», vidi la cosa come la possibilità di ammortizzare le spese comuni per la benzina e per il pedaggio autostradale. C'è posto, che venga anche Ignazio. Ore 5 di sabato mattina, si parte da Brescia con l'auto di Ugo, il cantante. Con lui ci siamo io, Claudio, e suo cugino Ignazio, che non conosciamo bene. L'avevamo forse intravisto durante qualche nostra serata nei locali della città. Ignazio si dimostra sin da subito un tipo alla mano, simpatico. Racconta aneddoti e barzellette che allietano il viaggio sulla A4 da Brescia a Peschiera, sulla bretella che raccorda l'autostrada del Brennero ad Affi e poi su, salendo la provincia di Trento, quella di Bolzano, nella Valisarco, verso il Passo del Brennero. Nonostante fossimo un gruppo che suonava, quindi l'immaginario collettivo magari quello di qualcosa di alternativo, eravamo ragazzi assolutamente ordinari, molto puliti da un certo punto di vista, quindi molto molto tranquilli con l'hobby della musica, con il piacere di ritrovarsi e andare in giro a suonare. Il viaggio trascorre serenamente mentre le montagne si fanno sempre più alte, il paesaggio sempre più tirolese e i nomi dei paesi vengono indicati con il doppio idioma italiano e tedesco. Nel 1993 le cose erano molto diverse da oggi, quando anche solo decidevi di andare in auto da Brescia a Monaco di Baviera. Esistevano la lira, lo scellino austriaco e il marco tedesco, ma soprattutto esistevano le frontiere. O meglio, anche oggi esistono le frontiere, ma con gli accordi di libera movimentazione dei cittadini all'interno della UE, sanciti dal Trattato di Schengen, sono una pura formalità. Allora, nel 93, non era così. Quando arrivavi alla frontiera per uscire dall'Italia, dovevi presentare i documenti prima al posto di controllo italiano e poi, una manciata di metri più avanti, a quello austriaco, nel caso del Brennero. Ed è proprio a pochi metri dal gabbiotto con la polizia di frontiera italiana che dobbiamo metterci in coda e attendere il nostro turno. E qui Ignazio, con il solito tono scherzoso che aveva usato per tutto il viaggio, dice: «Ragazzi, devo dirvi una cosa. Io sono segnalato in Germania e in Austria per un piccolo problema di spaccio, ce l'ho avuto lo scorso anno, quindi ho un documento falso. Spero non se ne accorgano». Ci sono 4 o 5 secondi di silenzio e poi un: «Ma sei scemo? Ma che cazzo stai dicendo?» Insomma, eravamo in auto, in coda, in attesa del controllo doganale, quindi senza poterci girare e tornare indietro, con un tizio che aveva avuto problemi di spaccio con la giustizia e con una carta d'identità falsa. Ci eravamo cacciati in un bel casino. Non avevo mai oltrepassato il confine virtuale tra il legale e l'illegale, ma in quel momento stavo per passare anche quello. «Claudio, anche tu?» chiediamo al cugino. «Ma non lo sapevi? È tuo cugino, potevi dirci qualcosa?» Claudio confessa che sapeva qualcosa dei problemi con la giustizia di Ignazio, ma non sapeva della carta d'identità falsa. Nella testa mi passarono pensieri e scene su come giustificare che io, Ignazio, non lo conoscessi affatto. Mi immaginavo già seduto ad un tavolo con un agente di polizia che mi interrogava, e poi a mio padre e a mia madre. Che cosa avrei potuto dire? Non avemmo neppure il tempo per realizzare la cosa che fu il nostro turno per il controllo alla frontiera italiana. La gente era seduto nel suo gabbiotto, sporgeva solo metà del suo corpo, il braccio appoggiato alla finestra. Stava parlando con qualcun altro all'interno e con il volto rivolto al suo interlocutore, con il braccio esterno ci faceva segno di proseguire, quindi nessun controllo. Ancora storditi dalla notizia e con sentimenti combattuti tra il sollievo e la paura, ci avviciniamo al posto di blocco della frontiera austriaca, che è pochi metri più avanti. Lì la gente prese le 4 carte d'identità, le aprì, guardò le foto, guardò i nostri volti, forzatamente rilassati, e ci lasciò passare. «Merda, Ignazio», dissi, «ci hai messo nei guai». E lui, sempre sorridente e più rilassato di tutti, disse: «Ma state tranquilli, tanto non se ne accorgono. E poi al massimo dirò che non vi conosco, che vi ho chiesto un passaggio». La cosa non ci tranquillizzò, e arrivati alla frontiera tra Austria e Germania si ripete la stessa scena. Poliziotto austriaco che ci fa passare senza controlli, complice una lunga coda in attesa, e poliziotto tedesco che controlla i documenti e ci fa segno di proseguire. Siamo salvi? In realtà no. Domani dobbiamo rientrare in Italia e c'è da pregare solo che nessuno si accorga del documento falso di Ignazio e del fatto che, anche se simpatico e di compagnia, è pur sempre uno che ha spacciato trip. Le ore successive proseguirono con birra, canti e padiglioni dell'Oktoberfest stracolmi di gente e il tutto anestetizzò le nostre paure. Il quartetto, composto da me, Ugo, Claudio e Ignazio, si ricompose la sera per andare a dormire. Io in auto e gli altri tre in tenda in un parchetto non troppo lontano dalla grande spianata dove si svolge l'Oktoberfest. Il mattino dopo ci svegliamo ovviamente rintronati, ma ci riprendemmo con una pesante colazione alla tedesca al sapore di senape e con l'ultima birretta per mandare giù una colazione ben più abbondante di un lauto pranzo. Era il momento della resa dei conti. Dovevamo rientrare in Italia. Per chi frequenta l'Oktoberfest sa bene che è una sorta di bolla nel quale tu entri, ti diverti, canti, bevi, balli, ed è servito sicuramente per dimenticare quello che era successo e tutto è ritornato quando siamo risaliti sulla macchina per ripartire e ritornare in Italia. Eravamo sereni e confortati dal fatto che durante questi weekend, allora, ma anche adesso, salvo quest'anno, si muovevano migliaia di turisti, di italiani dall'Italia verso Monaco e poi la domenica alla fine del weekend di rientro, quindi contavamo ed eravamo confidenti di non finire nelle maglie dei controlli. Non so se fu ancora solo un colpo di fortuna, ma dai passaggi tra le frontiere tedesca, austriaca e italiana passammo indenni. Anche qui probabilmente favoriti dalla tanta gente che transitava in quel momento e che alleggerì i controlli. Ogni frontiera fu comunque un transito con la tensione che mi correva lungo la schiena e con il mantra di Ignazio che diceva «Tranquilli, questi qui non capiscono niente, sono poliziotti, ci faranno passare». Passato però il confine italiano ci fu un liberatorio «Ignazio, ma vaffanculo!» con risate di sollievo e altre invettive che erano solo la medicina per guarire quella forma di paura. Ignazio, sempre con quel sorriso stampato sulla faccia, disse «Ve l'avevo detto» e dovette subire un'altra scarica di improperi. Ignazio oggi non c'è più. Qualche anno fa è mancato e credo in situazioni non troppo belle. La sua vita era evidentemente scivolata ulteriormente verso la delinquenza e verso degli strani giri. Con Claudio e Ugo, dopo aver suonato ancora per diversi anni insieme, ci teniamo in contatto sentendoci non troppo spesso. Non credo di avere mai temuto più di quella volta per la mia incolumità legale. Ho sempre frequentato ambienti puliti, non ho mai fatto qualcosa di illegale e non ho mai avuto problemi con la giustizia, mai. Ma quel sorriso di Ignazio e la sua serenità nell'affrontare qualcosa di doloroso e di illegale mi sono rimasti stampati nella memoria. Un po' per ricordarmi che io non sarei mai stato in grado di sopportare con la sua calma situazioni come quelle passate, superando il confine della legalità. E un po' per farmi capire che ogni uomo, anche se delinquente, ha una sua umanità e sa essere, nonostante tutto, un buon compagno di avventure. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In in a jingle jangle morning I come following you. Ci sono categorie di storie, e quella di Alessandro probabilmente ci rientra, che ci vengono in mente, che ci ritornano alla mente quando una persona che ha partecipato a quella storia, a quel pezzo della nostra vita, viene a mancare. Non so esattamente quando sia mancato Ignazio, però è vero anche che Alessandro lo cita come pezzo finale, e quindi vorrei proprio partire da lì. Pronto? Ciao Alessandro, buongiorno. Ciao Matteo, un piacere. Come stai? Tutto bene? Bene, grazie. Senti, Alessandro, di Ignazio sappiamo qualcosa di più? Come è mancato? Quanto tempo nulla, fa? Nulla, e sai che è una peculiarità anche di questa storia, perché è stato un flash che è comparso in quell'evento, in quel weekend, dopodiché io ne ho perso assolutamente i contatti, l'ho saputo non troppo tempo fa, che non era più tra noi. Senti, no, proprio non l'ho più incontrato. Era una persona piacevole, però, al netto del fatto che passava delle frontiere con dei documenti falsi, però era una persona con cui era piacevole da avere in compagnia, mi sembra di capire. Assolutamente sì, assolutamente sì. E si era intrufolato nel nostro gruppetto, ma aveva allietato, diciamo, da quando siamo partiti fino a pochi metri dalla frontiera, in maniera serena e gioviale, con davvero un sacco di barzellette, di aneddoti. Ci ha congelato poi a pochi metri dal confine. Quindi, diciamo, non aveva l'aria di un delinquente vero e proprio. Assolutamente no. Assolutamente no. Ed era persino quasi sfrontato nella sua sicurezza, tranquillizzando noi dicendo: ma non preoccupatevi che non succede nulla. Senti, Claudio e Ugo li vedi, li senti ancora invece? Sì. Non così frequentemente come quando suonavamo assieme, ovviamente, però intanto ci si sente. Che musica facevate? Ma cover, nei locali ai tempi andava molto la cover di cantautori nazionali, internazionali, nei vari locali della città in zona. Parliamo di Brescia? Brescia, sì. Parliamo di... Tu vivi ancora a Brescia, mi sembra di capire. Sì. Senti, com'è la situazione in città adesso, dopo quello che è accaduto in primavera? Parlo del virus. Brescia e Bergamo sono state particolarmente colpite. Non ti chiedo i numeri degli ospedali, quelli lì si trovano, ma so che ovviamente non sono più quelli di marzo-aprile. La percezione proprio, camminando per le strade, gli amici, i parenti? Guarda, io abito a Brescia ma lavoro a Bergamo, quindi bazzico proprio il cuore, l'epicentro del disastro. E c'è una normalità che però è rivestita di un dubbio, di gente che comunque è sempre con sospetto in giro. Cioè, è normale, perché i volumi di persone, di auto che trovi per strada, le code sono tornate a essere quelle normali. È tornato tutto, sì. Ma non è più come prima, perché alla fine è vero, cioè, le persone che aspettano fuori dai negozi proprio turno, se ti scappa un colpo di tosse sei... Certo, sì, quello devo dire anche a Milano, anche in città. Però forse in realtà questa grande paura che abbiamo preso, non lo so, forse c'è anche un po' di fortuna, però questa grande paura ci sta permettendo di mantenere dei numeri plausibili per continuare a vivere e non chiuderci dentro, come sta invece accadendo di nuovo in Europa. Però appunto non sono un tecnico, lo dico proprio così, come da osservatore. Alessandro, sei più tornato all'Oktoberfest? Sì, ok, quindi sei un abitué. Abitué no, però dopo qualche anno, e per qualche anno l'ho rifrequentata, sì. Senti, cosa fai nella vita? Lavoro in banca. In che pezzo della filiera bancaria lavori? Diciamo sul mondo sistemi di pagamento innovativi e verso l'estero, anche con alcune società, con alcuni clienti che operano per l'estero. È fantastico, non ho capito niente, ma è come se ci voleva la Rosciani qui al posto mio, ma facciamo come se avessi capito. Alessandro, io ti ringrazio per la chiacchierata e per la storia, ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie a te Matteo. Buona giornata, ciao. Grazie mille. La città si chiama Duke, Nuevo México, el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Tenían la plaza del Duke, el Tuco y el Crazy Eight. Al Tuco le dieron piso manejando su escalera. Un poco antes los gabachos quebraron al Crazy Eight. Grazie mille ad Alessandro per la storia che ci ha mandato. Tra l'altro questa storia noi l'abbiamo raccontata perché in teoria, se le cose fossero andate come dovevano andare, ieri si sarebbe chiusa l'edizione 2020 dell'Oktoberfest, che in realtà appunto non c'è stata. È stata, come vi dicevo, una storia che ha a che fare con i confini veri e propri, ma anche con i confini tra il legale e l'illegale, che nella prossima storia vi racconteremo in maniera ancora più pregna, ancora più densa di significato. Se avete voglia di mandarci la vostra storia, come ha fatto Alessandro, lineedombra@radio24.it è l'indirizzo per mandarcela. Una storia di confine, una storia che abbia una linea d'ombra nel mezzo che divide tra un prima e un dopo. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. La puntata si intitola Come Walter White. Walter White è il protagonista di questa serie televisiva di grandissimo successo che si è chiamata Breaking Bad ed era la storia molto semplice di un uomo che si ammala di tumore, sa che sta per morire e per lasciare un po' di soldi alla famiglia, essendo lui un professore di chimica e non avendo da parte tantissimo denaro, decide di darsi alla fabbricazione di metanfetamina, di droga, ma soprattutto di varcare il confine non solo tra il legale e l'illegale, ma tra l'essere buoni e l'essere cattivi. Ecco, in questa puntata la prossima storia sembra veramente presa paro paro dalla trama di Breaking Bad, anzi direi il contrario, sembra che Breaking Bad si sia ispirata a questa storia. È una storia di diversi anni fa, è la storia di un uomo che si chiama Joe Jackson, un autotrasportatore americano che per la salute di suo figlio, in questo caso, è disposto a tutto, anche a varcare quella linea. State con noi. Yvonne e Joe Jackson sono una coppia americana che vive in una cittadina del Texas. Hanno tre figli. Yvonne è casalinga, Joe è un truck driver, è un camionista. Siamo a metà degli anni 90 quando un giorno al terzo figlio della coppia, Cole, viene trovata una malattia rarissima al sistema immunitario. Un amico era venuto a conoscere il bambino, racconta Yvonne. Quel giorno abbiamo notato che Cole aveva dei puntini rossi dappertutto. Sembrava quasi un'eruzione cutanea da calore. Io quindi dissi, penso che probabilmente dovrei chiamare il pediatra. Per qualche motivo, qualcosa mi diceva che dovevo portarlo da un medico, in fretta. Yvonne, la mamma, porta Cole all'ospedale dove gli fanno alcuni esami del sangue. Le dicono di tornare dopo un paio d'ore, così lascia i due figli più grandi alla suocera. Appena torna in ospedale, il medico la chiama in ufficio, le parla di questa malattia, ma ha bisogno di tempo per capire che cosa sia e come curarla. Ci sono voluti 6 mesi prima che i medici potessero dare una risposta ai Jackson. Si è scoperto che Cole era nato con una rara malattia di immunodeficienza nota come sindrome di Wiskott-Aldrich. La malattia è molto rischiosa, il sistema immunitario è indifeso e anche un raffreddore può essere fatale. I medici dicono a Yvonne e Joe che Cole ha bisogno di un trapianto di midollo osseo e che gliene serve uno molto velocemente, perché c'è il rischio che il bambino non veda il suo compleanno, che sarà a luglio. Dicono che il trapianto è l'unica cosa che possa salvarlo, che senza questo Cole morirà. Il problema ora sono i soldi. Il costo per questa serie di procedure è altissimo, oltre $250,000. I medici comunicano che senza cure il bambino non supererà i 3 anni di vita. E in un paese come gli Stati Uniti, in cui se non hai un'assicurazione sulla salute puoi essere davvero nei guai, sono i medici stessi a non considerare l'ipotesi della cura e a dire ai due genitori: prendetevi cura di lui e cercate di farlo stare bene in questi pochi anni che vivrà ancora. Ma non si può fare. Non si può dire a un genitore di mantenere il figlio il meglio possibile in vita solo perché non hanno i soldi per curarlo. Quindi mi stai dicendo che se avessi un sacco di soldi, racconta la mamma di Cole, mio figlio potrebbe vivere, ma visto che non ho soldi, mio figlio deve morire. Yvonne e Joe, dopo un primo momento di sconforto, decidono di reagire e si mettono a raccogliere soldi in tutti i modi. Fanno serate, si rivolgono ad organizzazioni umanitarie, fanno raccolte fondi, ma dopo un anno hanno tirato su poco più di $50,000. Intanto Cole ha iniziato le cure e comincia a stare meglio. Joe era in viaggio tutti i giorni, era in camion 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per trasportare i prodotti dal Colorado al Texas. Trasportava bestiame verso la California e tornava. E miracolosamente stava coprendo tutte le spese della famiglia. Le sempre crescenti spese mediche di Cole, il loro mutuo, era tutto a posto. Il primo trapianto di Cole intanto non va a buon fine, mentre i medici si occupano dei diversi trattamenti, le spese mediche continuano a lievitare, siamo quasi a $5,000 al mese. Joe però assicura a Yvonne che se ne sta occupando lui, che è tutto a posto, e in qualche modo continua a pagare tutto. Con il tempo la salute di Cole si stabilizza. Raggiunge il suo terzo compleanno e poi il quarto. La vita sembra insomma finalmente diventare un po' più facile per i Jackson. Fino a che, un giorno, mentre sta preparando la colazione ai suoi figli, Yvonne si sente chiamare dalla strada con un megafono. È la polizia. Vuole fare irruzione in casa. You just won't lie down. Even closing your eyes, you can't let it go. Surrounded inside. Leave it alone. You don't get it back. Undoing the things you can't explain. Like you're there as someone removed and left in their place with nothing to do. Stavo cercando di fare colazione, racconta Yvonne, di preparare il pranzo e i due bambini per la scuola, quando qualcuno si è avvicinato con un altoparlante alla nostra casa e ha detto: abbiamo bisogno che tutti in casa escano con le mani in alto. Io ho guardato fuori dalla porta e ho detto: ma che diavolo è successo? Mi è passato per la testa che forse erano nella casa sbagliata. E così l'ho detto ad April, a mia figlia, ho detto: April, prendi John e Cole e vai su nel mio letto e non scendere finché non torno in casa, perché non voglio che nessuno si faccia male. Quindi rimanete dentro casa qualunque cosa accade, rimanete qui, non uscite dalla porta con le braccia alzate come mi hanno detto, non fatelo. Yvonne si trova schierata un'intera squadra speciale di polizia che le punta contro i fucili col puntatore laser. Non cercano lei, cercano Joe. Dicono che suo marito è un corriere della droga. Mio marito mi chiamò quella sera stessa e io gli dissi: queste persone sono entrate in casa. E lui mi rispose: non preoccuparti, ci penso io, è tutto a posto, non preoccuparti di nulla, è tutto a posto, è tutto a posto. Io però sapevo che cosa era accaduto, che cosa stava accadendo, a quel punto l'avevo capito. Mio marito si era messo a trasportare della droga e l'aveva fatto per trovare i soldi per Cole. Joe viene catturato, viene portato in carcere. Facendo il camionista ha capito che un modo per fare i soldi per pagare le cure del figlio era trasportare metanfetamina dal Messico agli Stati Uniti. I suoi legali cercano di spiegare al giudice della Corte federale che la motivazione per cui Joe trasportava quella droga era nobile, era per salvare la vita del figlio, ma non c'è verso. Il giudice lo ritiene colpevole e lo condanna al carcere a vita, ergastolo. I giorni di Joe in carcere si ripetono uguali. Ogni settimana parla al telefono con Yvonne e i bambini. Lavora al negozio di alimentari della prigione, guadagna 75 centesimi l'ora. Anche oggi, a distanza di anni, ricorda chiaramente quello che disse al giudice quando lo aveva condannato all'ergastolo. Sapete, signor giudice, aveva detto, quando mio figlio stava morendo e abbiamo provato in tutti i modi a chiedere aiuto a tutti voi, a tutte le agenzie federali dello Stato, alle istituzioni, non ci avete voluto aiutare. E quindi non credo che mi aiuterete adesso. So my father's been incarcerated since I was 14 years old. I have a 14-year-old daughter myself. Mio padre è stato incarcerato quando io avevo 14 anni. Ora anche io ho una figlia di 14 anni. Abbiamo quasi chiuso un cerchio dal momento che lui è stato in carcere per più di 20 anni. E lui è uno di quei rari individui che si incontrano nella vita che sono genuinamente delle persone buone. Ho molti ricordi di mio papà. Quando andavamo al lago, quando giocavamo alla lotta libera sul tappeto, o quando andavo sul suo camion. Ricordo questi enormi suoi sorrisi che accendevano la stanza in cui si trovava. E non sopporto che i miei figli lo abbiano conosciuto solo da dietro a quei muri. Stiamo perdendo speranza dal momento che siamo verso la fine della presidenza Obama ed è importante per noi averlo a casa, così che possiamo passare gli anni che gli rimangono da vivere insieme a lui. You know, we can spend his remaining years with him. Lei è April, è la figlia di Joe, che da anni porta avanti una lotta per fare scarcerare il proprio padre. Joe si è perso un sacco di cose, compleanni, lauree, guardare sua figlia che si sposava, i suoi nipoti che nascevano. Sono passati 20 anni e Joe dice che quello che ha fatto lo farebbe ancora senza il minimo dubbio, dal momento che suo figlio Cole, oggi, ha 24 anni. E anche se non sta in splendida forma, è vivo e va all'università. Durante un'intervista piuttosto recente, Cole, suo figlio, ha detto che ha capito davvero quello che aveva fatto suo padre per lui durante l'adolescenza e averlo capito per lui è stata la più grande fortuna della sua vita, perché suo padre è il suo eroe. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. La storia che vi abbiamo raccontato, come vi dicevo e come avete sentito, era di qualche anno fa. Noi l'abbiamo sentita in questo podcast che si chiama Snap Judgment, che in realtà è una trasmissione radiofonica americana che racconta storie di questo, fanno giornalismo di questo tipo, fanno giornalismo narrativo, un po' come This American Life, che forse conoscete un po' meglio perché ve la racconto spesso, ve la cito spesso. La buona notizia in realtà è del 2016, l'8 marzo del 2016 Dickie Joe Jackson, cioè il protagonista di questa storia, è uscito di prigione, ha ricevuto quello che si dice the clemency, cioè ha ricevuto la grazia e quindi ha ottenuto indietro la sua libertà. È tornato a casa e se andate a cercare Dickie Joe Jackson vedete alcune foto di lui molto giovane, alcune foto in carcere, alcune foto molto più recenti con tutta la sua famiglia e tutti i suoi nipoti in qualche luogo americano che sembra essere probabilmente un parco giochi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco qui a Linee d'Ombra, la nostra storia seriale. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Linee d'Ombra. Io ogni volta che mi avvicino alla storia che vi stiamo raccontando, alla storia di Antonio Cocco, quella di un uomo che varca un confine dal quale non riesce più a tornare indietro per via di una fuga dall'Italia in giovanissima età, per via di un brutto voto a scuola, un cattivo voto a scuola, lo porta a scappare, arrivare in Francia dove è clandestino e lì sostanzialmente, quasi in maniera coatta, lo fanno arruolare nella legione straniera ed è un ragazzo, è un ragazzino e si trova in mezzo a questa che lui chiama gentaglia senza Dio. Lui è molto credente, lo è la famiglia, lo è la madre e questa che stiamo per raccontarvi in questo episodio della nostra storia, Antonio scrive per la prima volta alla madre, o meglio, è la prima volta che noi vediamo in questo epistolario che ci è stato consegnato dall'archivio etiaristico di Pieve Santo Stefano e che è, ripeto, un libro che si intitola La ridotta Isabel. Ebbene, in questa epistolario questa è la prima volta che vediamo una lettera indirizzata alla madre. Il tono di Antonio è radicalmente diverso da quello che si trova nelle altre lettere, è meno diretto, è meno schietto, è come se l'usanza di quegli anni, la metà degli anni 50, portasse gli uomini, chissà per quale ragione strana, a non dire certe cose alle donne, alle madri, alle sorelle, come se volessero proteggerle da chissà quale bruttura che loro stessi stavano vivendo. E quindi in questa lettera Antonio scrive alla madre e non racconta, accenna qualcosa di quello che sta vivendo lì, in realtà però le racconta della sua fede, di come riesca a mantenerla nonostante la gentaglia appunto che si trova intorno a lui. Le racconta che continua a guardare i santini che lei gli aveva regalato, e poi parla di preti, di sacerdoti. Insomma, è una lettera molto religiosa per certi versi, e soprattutto è una lettera a una madre, e quindi è una lettera moderata, morigerata nei toni e nei contenuti. Continuiamo a raccontare, stiamo sempre insieme ad Antonio Cocco, abbiamo cominciato a raccontarla a inizio settembre, anzi a fine agosto, questa storia della prima puntata di questa edizione di Linee d'Ombra, e continuiamo a farlo, state con noi. Diceva mia madre di non preoccuparsi, che lui non si porta armi dietro, non ha coltelli, non ha niente, no? Perché su una lettera precedente mamma aveva capito una cosa, gli domanda. Nella stessa lettera mi scrive: sai Gianni, ho un coltellaccio enorme che mi porto sempre dietro con me. Saida, cara mamma, è la prima lettera che ti scrivo, ma non pensare male. Se non l'ho fatto prima non è stato certamente colpa mia. La medaglia che mi avevi messo sul vestito l'ho trovata subito, e ho pure immaginato che eri stata te a metterla. È di questa medaglia qua che tu dicevi che forse vostra mamma aveva subodorato qualcosa, che immaginava che forse lui volesse scappare, che qualcosa sarebbe successo, sì, immaginava mia madre. Che sapesse bene cosa, no, perché dopo, quando è rimasta, Giulietta era sposata, sono rimasti mia sorella e mia madre, abbiamo vissuto degli anni insieme, me ne parlava queste robe, pochino, ma qualcosa mi accennava, certamente qualcosa pensava sarebbe successo, anche perché lei, molto religiosa come mio padre, questo figlio che invece rompeva le scarpe e andare in chiesa, cioè questo era già un fatto grave per mia madre, no? Che sicuramente avrebbe portato qualcosa di brutto nella vita. L'ho persa purtroppo mentre passavo il confine tra la neve. Forse avrà preferito rimanere tra la bianca neve che tra le mie mani sporche. Però il tuo santo lo conservo tuttora, e spesso alla sera ci medito un po' sopra, e non chiudo occhio se non ho detto prima tre Ave Maria. Non so ancora come non ho fatto a perdere la fede in mezzo a tutta questa gentaglia. Forse saranno le tue preghiere che mi tengono lontano da questa idea. Sì, mamma, sarò obbediente al mio servizio e cercherò di sopportarlo con santa rassegnazione, per quanto duro sia. E cercherò anche di non perdere l'abitudine che mi hai dato di pregare sera e mattino. Continua a pregare per me, mamma, che ne ho molto bisogno. E di a Don Germano che gli ho scritto la seconda volta, ma stando alle parole di quello che mi hanno detto, le lettere dirette ai sacerdoti non te le fanno partire. Il giovane sacerdote della Chiesa dei Carmini, quel Don Germano Pattaro, che è citato anche nelle lettere, sì, di Antonio, poi sarebbe diventato uno dei teologi più significativi del italiani degli anni 60-70. Era un salesiano, amico di famiglia, ne è spessissimo a casa nostra, ed è stato un po' anche merito suo se tante cose poi sono avvenute, perché era amicissimo di tutti noi, e amicissimo di mia madre, mio padre, eccetera, sì, ed era molto vicino alla famiglia, sì. Conosceva un po' tutto quanto lui, insomma, mi ricordo benissimo. Era diventato un famiglio proprio Don Germano, era spessissimo a casa nostra. Certamente si confidava con mio padre anche su cose del genere, anche lui era molto obiettivo e capiva che la cosa, diciamo che tutta una serie, adesso dirti cosa non lo so, ma so che il suo pensiero a casa aveva molto effetto, era molto considerato Germano, anche perché era molto intelligente. Temo così che abbia fatto la stessa fine anche la lettera che ho spedito al padre Don Legrand, quello che conosce papà. Ti saluto affettuosamente e ti bacio, Tony. PS, scrivo qui l'indirizzo di Don Legrand, pensando che forse potrà servire a papà. It got too hot